Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, la giornata del contagio, temono alcuni. Che cosa è successo? È successo che da questa mattina questo maledetto spread, che ormai tutti conoscono, di cui tutti parlano più che del calcio, ha ripreso a salire in tutta Europa. Ecco perché parliamo di contagio. In Italia è tornato sopra i 500 punti, è arrivato fino a 530-520, adesso di nuovo siamo intorno ai 515 punti, ma soprattutto è salito molto in altri paesi. In Francia è volato a 190 punti. Allora avremo un approfondimento su questo. È chiaro che, lo capisce anche un bambino, tra 500 punti e 190 punti ci sono 310 punti di differenza. È un abisso. Però attenzione, perché la Francia in questo momento si trova con uno spread, quindi con un rischio paese misurato rispetto a quanto sia misurato il rischio con la Germania, che è identico a quello dell'Italia 4 mesi fa. Ora non vogliamo tirargliela, però attenzione, siccome i francesi hanno avuto un atteggiamento anche un po' così spocchioso nel passato, la Francia è passata nell'arco di 2 settimane da 110 punti a 190. Per cui oggi è fatto prima 160, poi 170, poi 190. Il Portogallo viaggia a 963 punti, la Grecia, vabbè, inarrivabile, 2700 punti, e la Spagna 452. Anche la Spagna è tornata a crescere non poco. Il Belgio a 302 punti. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, questa è un'ipotesi interessante, siccome non esiste più lo scudo Berlusconi, cioè che spostava l'attenzione dei mercati principalmente sull'Italia, adesso si sono messi a osservare anche gli altri debiti, e infatti il nostro spread è salito, è altissimo, però è salito meno di quello degli altri paesi che ho citato, e soprattutto noi per fortuna non abbiamo toccato il record, che lo ricordo, di mercoledì scorso a 570 punti, siamo a 520. Ripeto, è un livello altissimo, insostenibile, e lo sarebbe anche se fosse a 450. Però il punto, mi sembra oggi, l'allargamento delle tensioni su non solo Portogallo e Belgio, ma anche soprattutto Spagna e Francia, tant'è che c'è chi evoca il rischio sistemico, il rischio 2008 dopo Lehman Brothers per quello che riguarda l'Europa. Sono tempi duri. E allora, no, non so, già alcuni scrivono, non so se Sarkozy rida ancora, ha molto poco da ridere. Ripeto, però, in questo momento non commentiamo l'errore di dire mal comune mezzo gaudio. La situazione italiana è ben più grave di quella francese, non c'è dubbio. Quello che però si può dire è che non esiste un malato, esiste un malato grave che è l'Italia, ma esistono tanti altri malati o persone che si stanno ammalando, o paesi che si stanno ammalando, che hanno poco da ridere. 349-238-6666 per i vostri sms. La borsa, allora, Milano perdeva più del 2%, ha recuperato parecchio dopo che è girata voce che Mario Monti potrebbe salire già questa sera verso le 20 al Quirinale con la lista dei ministri. Perde di più Parigi, l'1,60, Francoforte meno 0,60, Londra invariata, l'America meno 0,30, l'euro a quota 1,3520. Che cosa però succede a Milano? Al di là dei cali generici, c'è un crollo verticale di un titolo importantissimo, Finmeccanica, perde il 20% in questo momento, è sospesa più volte per eccesso di ribasso. Ha diffuso i conti oggi ed è successo di tutto, perché non solo l'utile è stato rivisto, anzi l'utile scompare, diciamo, ma i primi 9 mesi hanno registrato una perdita di 324 milioni. E vabbè, che vuol dire un meno 200% rispetto all'anno prima. Nei primi 9 mesi dell'anno scorso Finmeccanica aveva avuto un utile di 320 milioni. Finmeccanica significa, oltre che la capogruppo, Ansaldo STS, Selex Sistemi Integrati, Alenia, aerospazio, Augusta Western, gli elicotteri, i siluri della Whitehead, cioè c'è di tutto, DRS Technologies che è la controllata americana, è un gruppo bellissimo di cui spesso ci siamo occupati, attivo nel settore dell'aerospazio e della difesa, costruisce aerei, elicotteri, sistemi radar, sistemi integrati, segnaletica industriale e quant'altro. Però attenzione, meno 200% l'utile, cioè che passa da 320 milioni dei primi 9 mesi del 2010 a meno 324 milioni. E come se non bastasse, il neo da poco amministratore delegato Giuseppe Orsi ha detto: attenzione, il peggio deve ancora arrivare. Negli ultimi 3 mesi del 2011 avremo un rosso, quindi una perdita nettamente superiore a quella dei primi 9 mesi. Allora, la cosa interessante è che il presidente Guarguaglini, che fino all'altro ieri era anche amministratore delegato, che ha gestito l'azienda in questi anni, ospite più di una volta nel nostro programma, non si è presentato oggi al Consiglio di Amministrazione. È un atteggiamento quantomeno irrituale, che segna una profonda frattura tra Orsi e Guarguaglini. Non si capisce come si sia potuti arrivare nell'arco di pochi mesi da un gruppo che era, diciamo, considerato un gioiellino, e lo è quanto a imprese presenti, ha un rosso del genere. Addirittura c'è chi ha sospetto che forse i conti non fossero, diciamo, proprio così limati un anno fa, perché non si capisce cosa sia successo. E Orsi, l'amministratore delegato di Finmeccanica, ha detto: attenzione, non escludiamo la cessione dell'intera divisione ferrovia, quindi Ansaldo Breda, che costruisce infatti i locomotori, e anche Ansaldo CTS, da quello che capiamo noi. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms. E quindi l'andamento degli spread a livello europeo e le tensioni sulle banche, Finmeccanica, e poi l'aggiornamento della politica, ossia se Monti veramente ha la lista dei ministri con cui salirà a ora di cena al Quirinale, i temi di questa puntata. Rapidamente le altre notizie in breve. Alcuni vogliono l'astrologa per le previsioni, la inviteremo l'astrologa, adesso non mi sembra un momento, diciamo così, proprio calzante per l'astrologa, ma prima di Natale la inviteremo. Non è che ci abbia beccato molto sto giro, adesso vado a memoria, con tutto rispetto per Grazia Mirti, disse che a fine anno sarebbe risalita la borsa, come vedete anche le stelle ogni tanto prendono degli abbagli. Gli altri titoli in borsa, al di là del crollo di Finmeccanica, Unicredit dopo l'aumento di capitale annunciato ieri perde oggi il 5%, Popolare di Milano il 4,25%, l'Automatica il 3,31%, Media 7,1,70% come in pregilo, Estima Electronics meno 1,5% come Todds, e il Monte dei Paschi il 1,30% lo perde Telecom Italia, ma anche Enel, l'1% è il calo di Fiat. Mediolanum invece più 3%, Enel Green Power più 1,30%, Eni più 1%, Ansaldo più 0,90% come UbiBanca, Mediobanca più 0,80% come Luxottica, e infine Diasori nel Banco Popolare guadagnano lo 0,6%. Ancora due notizie in breve: l'oro è in calo a $1,765 l'oncia. Il petrolio apre sotto i $98, però insomma vicino a quota 100, meno 0,3%, ma c'è un nuovo record del gasolio, vola a 1,570 euro al litro, nuovo record storico del gasolio. Dunque, sì, vedo che c'è chi ha ancora voglia di scherzare come fa Monti a salire al colle, vabbè, scherziamoci sopra. Invece alcuni fanno notare sostanzialmente che la Gran Bretagna perde meno in questi giorni rispetto all'area euro. Sì, non ha l'euro, e il motivo è molto semplice: in questo momento l'attacco, poi ne parleremo con calma, l'attacco è anche a utilizza la Banca Centrale Europea come perno, cioè la Banca Centrale Europea non ha la possibilità ufficialmente di stampare moneta, la polemica l'abbiamo raccontata molte volte. C'è chi dice che per uscire da questa crisi definitivamente bisognerebbe cambiare anche il mandato della Banca Centrale Europea, non solo sull'inflazione, non solo, diciamo, sulla stabilità dei prezzi, che in questo momento non sono un grande problema, ma anche una Banca Centrale Europea capace e autorizzata come la Federal Reserve americana, quando è necessario, a stampare moneta. I tedeschi su questo però non è che ci sentono molto. Le consultazioni in Italia, fra pochissimo torniamo anche alle speculazioni in corso. Alcuni di voi vogliono sapere se sono stati bloccate le vendite, l'ho scoperto, anche per i CDS, i credit default swaps nudi, quelli senza acquisti, senza detenere titoli di Stato, e per i quali comunque ci sia sicura contro il rischio fallimento. Sì, l'Unione Europea ha bloccato, il Parlamento Europeo riunito a Strasburgo ha bloccato le vendite dei CDS nudi cosiddetti, e anche limitato le vendite allo scoperto in generale. Le consultazioni, dicevamo poco fa, oggi il Presidente del Consiglio incaricato Mario Monti ha incontrato tra gli altri anche i rappresentanti delle parti sociali. Poco fa Iva Malavasi, Presidente di Rete Imprese per l'Italia, quindi Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato. Ascoltiamo. Abbiamo confermato il documento che presentammo il 30 settembre, gli abbiamo ricordati 5 punti, gli abbiamo consegnato il documento. Il professore ci ha detto che vuol fare il governo, quel programma lo discuterà. Ha dato indubbiamente delle tracce, non ha affrontato nello specifico i temi, anche se qualche associazione legittimamente ha sottolineato aspetti più legati alle proprie specificità organizzative o settoriali di rappresentanza. Il professore punta ad una costituzione di un governo che abbia un orizzonte temporale che è quello della legislatura, e questo non ne ha fatto mistero, che sappia guardare oltre quella temporaneità, perché i bisogni del Paese non è che si fermino a pochi mesi, anche se l'urgenza di intervenire su modi specifici, su temi specifici, sono rilevanti. Ha sottolineato che ci saranno bisogno, non certo di lacrime e sangue, lo dico, lui non l'ha citato per la verità, ha detto che avremo certamente bisogno di impegnarci e di sacrifici, ma che l'equità e il rigore saranno le caratteristiche di questo governo, cercando con le parti sociali quell'appoggio, quella convinzione, quella mediazione, quel sostegno per la realizzazione delle riforme che da troppo tempo aspettano e che purtroppo la politica in questi anni non è riuscita per varie ragioni a realizzare. Il Presidente ha detto quali erano i suoi desideri, ha detto che è quasi pronto con la lista dei ministri, nel senso con la presentazione del proprio governo, punta sicuramente ad un forte e convinto sostegno del Parlamento e quindi della politica. Allora, adesso ci trasferiamo in Germania, però alcuni di voi vogliono sapere come si cosa determina lo spread. Allora, chiariamolo giustamente un'altra volta, è la differenza tra quanto costa all'Italia indebitarsi, all'Italia nel caso di quelli italiani, rispetto a quello che viene utilizzato come riferimento per tutti, che è la Germania. Siccome la Germania in Italia e in Europa è considerata il paese più sicuro, la differenza tra quanto costa a te rispetto alla Germania è il rischio in più che ha il tuo paese rispetto alla Germania. È un po' come se voi doveste andare in banca e vi faceste prestare dei soldi. Se si prende il soggetto meno rischioso in assoluto, poniamo il signor Rossi, tutti i diversi interessi che vengono chiesti al signor Bianchi sono il maggior rischio che la banca attribuisce al signor Bianchi rispetto al signor Rossi. Per cui l'Italia, quando diciamo che è tornata a 520 punti di spread, vuol dire che i nostri BTP rendono il 5-25% di differenza in più rispetto a quelli tedeschi, e non a caso oggi i BTP italiani sono di nuovo volati. Il decennale si è avvicinato pericolosamente alla soglia del 7% di rendimento. Il 7%, secondo il Fondo Monetario Internazionale, è la soglia oltre la quale tu non riesci più a ripagare il tuo debito. Quando uno ti presta i soldi è un tasso così alto che tu non ce la farai mai a ridarglieli più gli interessi, no? Allora, così si muove e così si è mosso anche quello francese, belga e spagnolo. Poi la risposta, un ascoltatore che dice: Brisoni, lei non capisce un C puntini puntini di economia, ha visto lo spread, eppure Berlusconi si è tolto dai... ma che puntini puntini ha studiato a fare? Non capisce nulla. Per carità, ci mancherebbe. Infatti invito gli ospiti che ne capiscono. Se posso dare un consiglio, ha visto lo spread, si scrive con l'H, non con la A senza H, tutto qua, visto che è giusto imparare a studiare tutti, no? Allora, la Francia perché? Perché oggi ho diffuso i dati sul terzo trimestre quanto a crescita economica, più 0,4 nel terzo trimestre, tra l'altro però sul secondo trimestre un meno 0,1 anziché stagnazione, insomma la crescita francese comunque è vicina alle stime del governo, è all'1,7% la crescita acquisita. E nel giorno in cui praticamente insomma, è uscito anche il PIL tedesco, oggi più 0,5% in linea con le attese. Nel frattempo però quello che è successo sugli spread ha fatto dire a uno dei saggi consulenti di Angela Merkel, lui si chiama Peter Bofinger: la situazione del debito italiano sta diventando davvero seria, credo che ci stiamo avvicinando ad una sorta di crisi sistemica che ricorda il 2008. Eh beh, un po' di gufo se lo becca anche il consulente della Merkel, Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Francia, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ripeto la premessa perché non vorrei essere fuorviante o fuorviato. 520 punti di spread nostri non sono paragonabili ai 190 punti di spread francesi. È come dire, noi abbiamo la febbre a 42, a 43 e la Francia ce l'ha a 38, 38 e mezzo. Però è vero che se due mesi fa la Francia non aveva febbre, adesso inizia a averla, sebbene non così preoccupante, così rischiosa come la nostra. I 190 punti toccati oggi da Parigi rispetto alla Germania, oltre che essere un record, sono il livello dell'Italia quattro mesi fa, e quindi usando l'esempio possiamo dire che la temperatura a 38 e mezzo è quella che noi avevamo quattro mesi fa, quando poi siamo passati da 38 a 38 e mezzo, 39, 40, 41, 42 e mo siamo con questa febbre da cavallo a 43 gradi. Che cosa temono i mercati su Parigi, che ha un deficit oggettivamente alto, ma diciamo, dove comunque si stanno muovendo riforma delle pensioni e quant'altro? Ma due o tre considerazioni. La prima, secondo me, riprende un pochino quello che dicevate sui titoli tedeschi considerati come beni rifugio, nel senso che lo spread si sta ampliando molto anche rispetto alla Francia, non solo perché salgono i tassi di rendimento dei titoli francesi, ma perché scendono molto quelli dei titoli tedeschi. È una delle considerazioni che secondo me è opportuno sempre ripetere. Che cosa preoccupa della Francia e i mercati? Ma fondamentalmente due aspetti. Uno è quello della bassa crescita, anzi direi della crescita nulla, prevista per il 2012. Il governo ha preparato una finanziaria, peraltro già ritoccata un paio di volte, che è basata su un'ipotesi di crescita dell'1%, che è la stessa peraltro prevista dalla Germania. E il problema è che ormai il consenso degli economisti è intorno allo 0,5%, la Commissione prevede uno 0,6%, ma sono in molti a parlare apertamente di una crescita zero o addirittura di una lievissima recessione almeno all'inizio dell'anno. A questo punto è chiaro che la Francia non sembra in grado di tenere e di conservare gli obiettivi di riduzione del deficit e quindi del debito che sono contenuti in finanziaria e che ha annunciato il governo. Il secondo aspetto riguarda la stabilità istituzionale, cioè la Francia non merita la AAA, questo è un dato di fatto, cioè i suoi fondamentali

con gli spread a 190 è evidente che come dire, il nuovo attacco è che la nuova frontiera, diciamo, di difesa dell'euro è diventata la Francia. Peraltro non dimentichiamoci che è il secondo maggior contributore del fondo salva stati dopo la Germania. È ovvio che la Francia qualche cosa dovrà fare ancora, questo è assolutamente inevitabile. In una battuta, perché siamo in conclusione, ma come mai la Francia, che pure ha una previsione di crescita, quest'anno crescerà bene, l'anno prossimo non così bene, insomma un po' meglio dell'Italia cresce, noi faremo lo 0,1 quest'anno, l'anno prossimo la Francia dovrebbe fare lo 0,6-0,7, come mai ha questo problema col deficit più alto del nostro, cioè, obiettivamente? Beh, loro hanno fatto una all'inizio di questa crisi, hanno fatto una politica in realtà, diciamo, tra virgolette, in qualche modo espansiva, cioè nel senso che hanno scommesso sul fatto che l'economia sarebbe ripartita, hanno fatto questo mega prestito di 37 miliardi di euro per finanziare l'economia e questo ha avuto un impatto forte sul deficit. Certo, loro contavano appunto di poter contribuire in questo modo a una ripartenza più solida e più veloce dell'economia e quindi poi di poter far fronte all'impatto sui conti, cosa che non è avvenuta e adesso si trovano nei guai. E quindi mi sembra chiara la tua analisi, non potranno reggere fino all'anno prossimo, dovranno mettere mano a, noi la chiameremo una manovra correttiva, ma di altro si tratta. Grazie a Marco Musonei in collegamento con noi da Parigi. A voi. Prima o poi ripartirò e salirò, frarerò se di questo giardino, e salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. No, ricordo lontano no, perché se continua così a salire il ricordo lontano diventa l'euro. Una risposta, un sms. E poi andiamo con il meteo. Dice, ma insomma, lei una marea di insulti, ma adesso non ci siamo abituati. Dice, ma insomma, lei è pazzo a dire che la Banca Centrale Europea dovrebbe stampare più moneta, più euro. Io non ho detto questo, ho detto che la critica che viene fatta alla Banca Centrale Europea è che non ha gli stessi poteri delle altre banche centrali nel mondo, quindi non può, in caso di necessità, stampare direttamente moneta. Meteo, pubblicità e poi di nuovo in diretta per commentare la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:40 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ancora sullo spread. Definiamolo così, definiamolo come la temperatura di un paese rispetto alla temperatura normale. La temperatura normale è 36,6 gradi, 36,7. Tutto ciò che si discosta da questa temperatura è lo spread. Allora, noi abbiamo, diciamo, 5 gradi in più, 500 punti e passa, 530 adesso, è come avere la temperatura a 42. Quasi. La Francia è vicina a 200 punti, cioè 2 gradi in più, è come se avesse una temperatura a 38,5. Questo è l'esempio che stiamo utilizzando, che okay? Non è malata come l'Italia, ma mentre 4 mesi fa era una temperatura normalissima a 37 gradi, adesso è a 38,5 e quindi lo stesso livello a cui era l'Italia 4 mesi fa. Questo per essere ancora più chiari sullo spread. Non è che noi vogliamo fare l'approfondimento sulla Francia, ma è chiaro che in questo momento, se si allarga agli altri paesi, l'Italia è a un livello inaccettabile. In questo momento i BTP a 10 anni rendono 7,06%, ma stiamo scherzando. Ma il problema è come fai a tenere fronte a tutti gli attacchi in questo momento in corso. Portogallo, che è salito a, adesso li do tutti con calma, 900 punti. E ancora la Grecia non la considero neanche più, Portogallo è a 963, Grecia 2670, Spagna 452. Insomma, attenzione, questo è il Belgio, è volato a 340 punti, adesso cerco 302 punti, scusatemi. C'è, ripeto, secondo il mondo anche un effetto Berlusconi, cioè lo scudo Berlusconi che prima concentrava su di sé tutta la speculazione, adesso, uscito di scena Berlusconi, si va a spargere anche sui debiti degli altri paesi. E parliamo anche di quello che stanno facendo le banche, perché noi continuiamo a vedere banche che, o il presidente ieri della Federazione delle Banche europee, che ha detto non comprate, vendete i BOT italiani, vendete i BTP italiani. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora ripartiamo da questo spread che continua a salire. Ma prima o poi ripartirò e salirò, salirò, salirò, salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò, Presidente Rosa, buonasera. Buonasera. Guido Rosa è presidente dell'AIBE, che è l'associazione che rappresenta le banche straniere in Italia, cioè l'ABI delle banche straniere. Preoccupato? Preoccupato, beh sì, direi che sono certamente grandemente preoccupato per tutto quello che sta succedendo, per la complessità dei problemi che ci stanno accadendo attorno, che sono problemi di natura economica, finanziaria, regolamentare, politici, c'è un tale intersecarsi di situazioni molto complicate e difficili per cui uno non può non essere preoccupato. Peraltro la grande confusione nella quale stiamo vivendo in questi ultimi tempi di mancanza di governo del fenomeno economico-finanziario da parte di tutte le autorità sta proprio a dimostrare che il fenomeno è molto... Ma molto come? Anche Mario Draghi? Ma certamente, voglio dire, Mario Draghi, a parte che Mario Draghi è lì da 3 giorni, quindi non gli si può attribuire certo nulla, ma non c'è dubbio che anche la Banca Europea, in qualche modo, pur nell'annunciata sua indipendenza, è tirata da tutte le parti, come sappiamo, dagli interessi dei tedeschi, dei francesi, eccetera. Cioè non è che la Banca Europea è una cosa assolutamente indipendente. In qualche modo anche lei, secondo me, così come altre autorità, soffre del fatto che in qualche modo si concentrano i vari interessi contrastanti delle varie nazioni in quelle entità che sono operative, come appunto la Banca Centrale Europea. Allora, sti benedetti spread. Ieri ricordavamo come dal 98 fino al 2009, quindi per 10 anni, ecco perché nessuno ne ha mai sentito parlare prima, il nostro spread, quindi la nostra febbre rispetto alla temperatura normale, che è quella della Germania, era inesistente, cioè 30 punti, 29 punti, 40 punti, 3 punti nel 2003, 13 punti nel 2005, 23 nel 2007. Perfino dopo Lehman Brothers, perfino dopo lo scoppio della crisi, quindi 2008-2009, noi siamo rimasti a 80 punti tranquillamente, quindi un leggerissimo surriscaldamento, un po' niente di più. Nel 2010 comunque viaggiavamo a 170, tutto poi è partito da giugno in poi, e diciamo dal 2010-2011 l'atteggiamento tedesco verso la Grecia ci ha messo del suo. Però mi dica una cosa, i suoi associati stanno scappando dal debito italiano, perché qua abbiamo visto Royal Bank of Scotland è passata da 3 miliardi e 200 milioni di euro di obbligazioni italiane a fine giugno 2001 a settembre 2011, scusi, a settembre, cioè in 3 mesi ha ridotto il suo portafoglio di obbligazioni italiane del 90%. Société Générale lo ha ridotto del 50%, aveva 5 miliardi di titoli di Stato italiani a fine giugno 2011, a fine settembre ne aveva 2,5. UBS da 3 miliardi è scesa a 2 miliardi e 2, sempre tra giugno e settembre. Ma che c'è, la fuga dall'Italia? Ma non è che ci sia la fuga dall'Italia, in realtà qui c'è un duplice fenomeno che si sta intersecando e che uno dei quali bisogna assolutamente tenere presente. Lei sa che le nuove regole di Basilea 3 comportano per le banche delle patrimonializzazioni molto elevate per tenere certi livelli di assets. Siccome oggi reperire capitali sui mercati internazionali non è facile per nessuno, certo non per le banche italiane, ma neanche per le banche internazionali, la misura che in qualche maniera le banche internazionali stanno prendendo è quello di fare quello che si chiama in gergo tecnico il downsizing degli assets, cioè la riduzione delle attività. E come dire, invece di ridurre il numeratore, riduco il denominatore, il rapporto funziona, capisce? Quindi in questa ottica di downsizing, di vendita degli assets, è evidente che si incomincia con gli assets che in qualche modo sono meno appetibili. È chiaro che le grandi banche hanno cominciato a vendere i BTP piuttosto che i bond, anche perché la ponderazione di rischio di quegli assets è molto diverso uno dall'altro. Tradotto è questo, se tu hai in pancia dei titoli di Stato italiani con le nuove regole, essendo più rischiosi, devi mettere più fieni in cascina, devi avere un patrimonio più alto. Invece, se tu in pancia c'hai i titoli di Stato tedeschi, puoi avere un patrimonio più basso. E le banche, avendo difficoltà a trovare soldi da mettere in patrimonio, preferiscono avere una cosa che non ti obbliga a mettere come corrispondente molto fieno in cascina. Anche se naturalmente la redditività di quei titoli è inferiore, perché naturalmente rispecchiano un rischio inferiore. Sì, però sulla presenza e sull'atteggiamento delle banche esterne in Italia lo vorrei sentire anche dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ha ragione chi scrive al 349-238-6666 che dovremmo fare anche noi quello che hanno fatto la Gran Bretagna e la Germania con la Svizzera. C'è cioè un accordo con la Svizzera per farsi pagare quelli che sono i depositi dei miliardari tedeschi britannici che hanno i conti correnti in Svizzera. Se è applicato all'Italia, visto che dovrebbe esserci circa 130 miliardi di euro di depositi di cittadini italiani in Svizzera, beccheremo tra i 20 e i 30 miliardi, non è poco. Vedremo se Mario Monti, tra le varie misure allo studio, metterà anche questo. Allora, Presidente Rosa, per concludere, lei che insomma, quando parla con i suoi associati, visto che le banche straniere hanno, me lo lasci dire, molti più titoli tossici delle banche italiane: BNP Paribas 32 miliardi, UBS 34 miliardi, Barclays 77 miliardi, Santander 24 miliardi, Deutsche Bank 46 miliardi, Commerzbank 6 miliardi, da noi, stando i dati che abbiamo a disposizione, Unicredit ha 10 miliardi di titoli tossici e Intesa solo 3,5. Li convince a restare in Italia o capisce che insomma c'è il fly to quality e uno preferisce avere dei guadagni più bassi ma dei titoli più sicuri che non ti impongono di aumentare la patrimonializzazione? Dunque, la situazione è questa. La quota di mercato delle attività in genere, se lo facciamo in maniera sintetica, delle banche estere in Italia è stata ed è molto rilevante in tutta una serie di attività, soprattutto quelle delle attività che in qualche modo sono legate all'investment banking, ma anche nel retail banking. Questo è, come dire, ancora una coda del passato. Oggi l'atteggiamento delle banche straniere nei confronti dell'Italia è, come dire, una specie di wait and see. Lei sa che in ogni banca, all'interno di ogni banca, i paesi hanno un loro rating che vengono effettuato appunto dalle unità di rischio di ogni singola banca. Purtroppo l'Italia è stata downgraded anche in questi rating interni delle banche in maniera molto sostanziale. Quindi l'atteggiamento delle banche straniere nei confronti del sistema Italia non è certo così intraprendente, direi quasi aggressivo come lo è stato nel passato. Ma quello che sono in uscita o no? È quello che sto dicendo. Quello che mi, da un punto di vista della presenza fisica, la risposta è no, non sono in uscita. Cioè non chiudono gli sportelli, non ho capito. Chiudono gli sportelli. Ma non comprano più il nostro debito? Non solo non comprano più il nostro debito, ma siccome tutte le banche oggi sono chiamate con il problema della rarità del capitale, quindi utilizzano dei criteri di allocazione delle proprie risorse meno selettive, molto più selettive, è chiaro che l'Italia diventa un paese estremamente difficile nel quale investire, in generale, che sia il settore pubblico o anche il settore privato, che di per sé invece è un settore sano. Quindi il futuro mi preoccupa molto, perché o l'Italia prende una serie di misure di ristrutturazione che la mettono al pari di funzionamento per tutto quanto attiene alla burocrazia, al fisco, alla regolamentazione, eccetera, con gli altri paesi. Le grandi riforme che o se no, non siamo riusciti a fare. Se adesso, stasera Monti dovrebbe salire al Quirinale con la lista dei ministri, ma insomma, lei che rappresenta le banche estere in questo paese, se Monti non ce la facesse? Un disastro completo. In che senso? Nel senso che sarebbe un disastro se Monti non ce la facesse per l'Italia, perché siccome già l'Italia è nel mirino della critica, è considerato un paese altamente a rischio, in qualche modo la carta Monti può essere una carta che ridà fiducia e credibilità al sistema. Se nemmeno Monti riesce a ottenere qualche cosa, allora si mette a nudo drammaticamente quella che è la situazione italiana, che non era solo legata alla presenza o no di Berlusconi, ma è proprio una sistema, ma è proprio una situazione di totale fragilità del sistema. Mi auguro davvero che Monti, non solo perché è bocconiano come sono io, ce la faccia, perché è una carta di salvezza che non può essere giocata in vano. Ormai siete la nuova lobby voi bocconiani. Lei che rappresenta le banche estere in Italia, mi dice viva l'Italia? Con tutta la mia forza! Me lo dica però. Certo che glielo dico, viva l'Italia, non solo, ma le dico anche che l'Italia è un paese straordinariamente ricco di è così. Lo so, però, ecco. Anch'io lo so. Vuole però... che le dica viva l'Italia, glielo dico. Viva l'Italia, me lo dica. A voce spiegata. Viva l'Italia e viva l'Italia due volte. Grazie, grazie al presidente dell'Associazione delle Banche Estere. In Italia ormai a questo ci stiamo aggrappando, a dire viva l'Italia, lo spread a 530, i rendimenti del BTP a 702, dopo il GR parliamo di borsa. Devo dire che Milano ha recuperato molto quando si è saputo che Mario Monti sarebbe salito alle 8 di sera al Quirinale, infatti perde solo l'1%, Parigi ha perso quasi il 2%, Francoforte meno 0,90%. La giornata è nella media europea su tutti i titoli tranne che su Finmeccanica, crollo vero e proprio meno 20,3%, parleremo anche di Finmeccanica dopo il GR. 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. E allora, dopo aver parlato di Francia e delle tensioni su tutti gli spread, quindi su tutti i rischi paese, francese, spagnolo, portoghese, belga e italiano, noi siamo a 530 punti, la Francia è 191, dove era l'Italia 4 mesi fa. Io lo dico, speriamo che non capiti alla Francia quello che è successo all'Italia, lo dico senza nessuna ironia, e speriamo che in questo modo anche l'Italia riesca in un clima più tranquillo a ritornare a un livello di spread accettabile, che sarebbe quantomeno sotto quota 300, diciamo così. Accettabile, non vuol dire buono, ottimale, ma almeno accettabile. Finché restiamo tra i 400 e i 500 punti non ce n'è. E il rendimento del BTP a 10 anni è al 7,07% di nuovo. E dopo aver parlato di Francia, dicevo, e aver sentito anche quella che è l'opinione di chi rappresenta le banche straniere in Italia, che ha detto chiaramente che le banche straniere stanno uscendo dall'Italia non come paese dove fa raccolta, sportelli e quant'altro, ma negli investimenti obbligazionari. Perché con le nuove regole di Basilea 3 avere obbligazioni italiane ti obbliga ad avere un patrimonio più alto rispetto a quanto non ti obblighi a avere obbligazioni e titoli di Stato tedeschi. Per esempio, adesso passiamo alla borsa, meno 1%, Parigi meno 1,90%, Francoforte meno 0,80%, Milano appunto meno 1%, Londra invariata la borsa. Allora, di Finmeccanica parliamo con uno spazio apposito, meno 20%, crollato il titolo, utile meno 200%, cioè da più 320 milioni a meno 330 milioni. Oggi presentati dei conti disastrosi sul gruppo, con l'ipotesi di cessione anche della divisione treni, quindi Ansaldo Breda e forse Ansaldo STS, con Guarguaglini che non si è presentato al consiglio di amministrazione, quindi rottura totale con Orsi. Però gli altri titoli, Unicredit meno 4,46, Popolare Milano meno 4,20, Lottomatica meno 3,60, Monte dei Paschi meno 2,60, Mediaset meno 2,40, il 2,30 lo perde in pregilo e anche ST Micro Electronics. Ciao Condina, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Unicredit e BPM. Allora, Unicredit meno 4,4%, da ieri un bel meno 10%, non si può dire che il mercato abbia ben accolto sia l'aumento di capitale annunciato da Unicredit, 7 miliardi e mezzo che comunque erano abbastanza nell'aria, sia quella che l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni, ha chiamato una pulizia dei conti, ovvero maxi svalutazioni per oltre 9 miliardi, che hanno portato a una perdita nel terzo trimestre di 10,6 miliardi. Ecco, per adesso questa operazione, diciamo, pulizia non è stata molto apprezzata dal mercato. c'è un altro aumento di capitale in valle, quello di Popolare di Milano, che diversamente da quello di Unicredito è già partito, anzi si chiude questa settimana, ci sono, insomma, la società si dice fiduciosa sull'esito della ricapitalizzazione, ma sul mercato ci sono molte tensioni ancora, considerato che il titolo oggi perde il 4,2%. Eh sì, il dato è chiaro sia su Popolare di Milano che su Unicredit, e sono gli aumenti di capitale che pesano. L'ottomatica invece, qui iniziamo a intravedere le prime ipotesi di manovra Monti, ammesso e non concesso che sia Presidente del Consiglio definitivo e non solo incaricato, l'ottomatica meno 3,60. Sì, l'ottomatica era un titolo che quest'anno era andato molto bene, anche sull'onda di una continua crescita del fatturato dei giochi in Italia, e poi adesso invece prende forma sempre più la prospettiva di una tassazione ulteriore delle vincite, si parla di un'aliquota del 6%, e quindi ovviamente il titolo paga in borsa oggi meno 3,65%. Ancora, tra invece i titoli che sono andati bene, cito Mediolanum più 2%, e poi anche Enel Green Power più 1,30%, Popolare Emilia Romagna più 1%, Ansaldo STS più 0,90%, evidentemente laddove va male Finmeccanica le ipotesi così di vendita attivano il titolo, Mediobanca più 0,90%, Ubibanca più 0,70%. Il risparmio gestito non è andato male oggi, non solo Mediolanum ma anche Azimut. Sì, Azimut andava bene, poi alla fine ha girato verso lo 0,9%. Comunque, per quanto riguarda Mediolanum, i dati del terzo trimestre erano insomma positivi, ha chiuso in perdita, ma fondamentalmente solo per le svalutazioni dei titoli di Stato greci. E nel Green Power, qui sono i conti, è un periodo in cui stanno uscendo le trimestrali, quindi il bilancio del terzo trimestre dell'anno. E i conti hanno dato vigore al titolo. Conti buoni, sì, diciamo in linea con la tesi degli analisti, ma con, insomma, del consenso del mercato, ma comunque buoni, anche perché quest'anno le utility, ricordiamolo, hanno la mannaia della Robin Tax che contribuisce a decurtare i profitti. Poi insomma le società energetiche sono delle società prevalentemente cicliche. Cosa vuol dire? Che sono legate al ciclo economico, quindi se rallenta l'economia diminuisce la richiesta di energia elettrica da parte delle industrie, e quindi dovrebbero pagare terreno. A maggior ragione nel Green Power è stata premiata dagli operatori di borsa, perché comunque gli utili hanno tenuto. I migliori e i peggiori in assoluto, Meridie più 32%, Mondo Home Entertainment più 9,20% e poco altro, mentre Danone più 4,26%, i peggiori Prelios meno 22% e poi Finmeccanica. E proprio di Finmeccanica parliamo, un disastro, i conti annunciati e presentati oggi, ma anche un disastro i rapporti interni nei vertici Finmeccanica. Grazie intanto a CEO Condine. Grazie a voi. Allora, c'è un gruppo che è tra i principali gruppi al mondo nel settore della difesa e dell'aerospazio, e quindi che fa elicotteri, siluri, radar, sistemi integrati elettronici per il controllo dello traffico aereo, del puntamento, ma che fa anche locomotori, segnaletica industriale per i binari. E ho dimenticato qualcosa? No, perché tra elicotteri, Augusta Westland, Aleni Aerospazio, sistemi appunto aerospazio difesa, Otto Melara, sì, cannoni, l'Ansaldo nel doppio senso dei locomotori e della segnaletica, la Selex nei sistemi integrati, la DRS che è la controllata americana, pezzi di aerei, sia aerei da combattimento che aerei civili. Questo gruppo si chiama Finmeccanica, capitalizza 2 miliardi e 100 milioni di euro, intanto ne valeva il doppio a inizio anno, cioè ne valeva 4 miliardi, ma soprattutto oggi ha presentato dei conti da non credere, cioè nei primi 9 mesi del 2011 rispetto ai primi 9 mesi del 2010 si è passati da 322 milioni di utile a meno 330. È un 200%, 201% in meno. E poi, come se non bastasse, il nuovo amministratore delegato Giuseppe Orsi ha detto: attenzione, a fine anno avremo conti anche peggiori rispetto a quelli già annunciati. Il titolo ha fatto meno 20% in borsa. A me la cosa che ha lasciato più perplesso è anche il fatto che oggi nel consiglio di amministrazione non si è presentato Pierfrancesco Guarguaglini, che è tuttora presidente, ma è stato per anni amministratore delegato del gruppo. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Del Sole 24 Ore. Domanda secca secca, poi andiamo dopo il traffico all'analisi, ma è successo qualcosa di inatteso, cioè sono crollati le vendite, gli ordinativi, o c'erano dei conti un po' troppo ottimistici, un po' troppo rosei l'anno scorso? Credo che in questa situazione si sia verificato il classico evento di discontinuità quando cambia un capo azienda. Dopo 9 anni in cui alla guida c'era l'imperatore Guarguaglini, perché è stato l'imperatore della Finmeccanica, è arrivato Orsi, ci ha messo qualche mese a guardare i conti e ha deciso di fare, si potrebbe dire, un'operazione di pulizia, ma questa in realtà c'è stata una svalutazione di oltre 700 milioni di euro solo nell'aeronautica e riguarda proprio il programma più avveniristico, la partecipazione al Boeing 787, l'aereo detto di plastica. Il Dreamliner. Esatto. Quindi questo cosa vuol dire? Che certamente il cambio di vertice induce chi arriva a guardare con maggior prudenza una situazione, però questa operazione intanto non esaurisce l'accantonamento di fondi a oneri di ristrutturazione che ci saranno nei mesi successivi, quindi saranno caricati penso nel bilancio di quest'anno e forse un po' l'anno prossimo, anche nell'area dell'elettronica, della difesa, la Selex, quindi dai radar all'avionica, che è molto importante. Certamente anche il quadro esterno, contrazione delle spese pubbliche per gli acquisti di armamenti nella difesa, deterioramento del mercato complessivo finanziario, hanno indotto il vertice a una maggior prudenza. Sì. Quindi allora, che ci fossero... ho capito, cioè tu dici, è arrivato il nuovo AD e ha preso in mano il bilancio e ha detto, beh, questa partecipazione per esempio nel progetto della Boeing, il 787 Dreamliner, l'aereo che va dagli aeroporti medi agli aeroporti medi, molto leggero, quindi consuma poco, quella partecipazione lì è stata svalutata, svalutatissima. E già questo però è un problema, eh? Ecco perché Guarguaglini non si è presentato. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia con Sebastiano Berisoni, Gianni Dragoni. Allora, alla luce di quello che tu hai detto su Finmeccanica, è questo il motivo per cui Guarguaglini non si è presentato? Perché Orsi gli ha detto, guarda che il tuo bilancio l'anno scorso era un po' ottimistico, c'erano delle sopravvalutazioni, adesso te le correggo io, e così si scopre che abbiamo perso il 200% rispetto all'anno prima. E seconda domanda, se mi rispondi assieme, quanto è forte l'ipotesi a questo punto che venga ceduta la divisione ferrovia, quindi Ansaldo Breda, ma forse anche Ansaldo STS? Su Guarguaglini cioè, non ha dato delle spiegazioni in pubblico ufficiali, ma evidentemente il presidente, che non ha partecipato al consiglio, dimostra che non era d'accordo, immagino, non fosse d'accordo su quantomeno su una parte importante di queste operazioni, se non sui conti, perché comunque Guarguaglini firmerà la relazione sui conti dei 9 mesi con questi numeri, anche perché come presidente si aprirebbe un caso, un problema, no? Eh sì, perché hai firmato il bilancio l'anno scorso e quest'anno dovresti comunque… Quindi deve firmare, però certo. Siccome c'era anche tutto un piano di riorganizzazione che cambia anche molte cose all'interno, da cui poi derivano anche certi oneri e un certo cambiamento, ma anche un cambiamento nell'impostazione del gruppo, anche tutto questo piano di vendite con l'obiettivo di incassare 1 miliardo di euro almeno l'anno prossimo, da vedere poi se sarà realizzato, diciamo secondo le mie così informazioni, che cercherò poi di scrivere meglio sul Sole 24 Ore, credo che Guarguaglini ritenesse che ci fosse necessario anche più tempo per discuterne, quindi insomma certamente non era completamente d'accordo, ecco, no? Però Guarguaglini ha escluso le dimissioni, rimane al suo posto, continua a fare il presidente della Finmeccanica. Sulla domanda della vendita rimane secondo me una certa ambiguità nelle informazioni che dà Finmeccanica, cioè Finmeccanica vuole vendere la società che perde di più oggi, che è l'Ansaldo Breda, che fa vagoni e locomotive e metropolitane, no? Per i ferroviari. Esatto. Però ha un gioiellino a parte, la Finmeccanica, che si chiama Ansaldo STS, come hai ricordato, che fa sistemi automazione e segnalamento nel mondo ferroviario, e di cui ha il 40% è quotata in borsa, quindi ogni parola detta su questa società può provocare delle forti oscillazioni. Infatti oggi è salita. Allora, Finmeccanica ha detto non è in vendita, però se chi vuole comprare l'Ansaldo Breda ci pone come condizione di comprare anche l'Ansaldo STS e ci fa un'offerta, noi la valutiamo. Quindi questo sembra un è un'apertura, dire che, chiaro. Esatto, che qualcuno dei compratori vuole questa, insomma, sì. Non l'altro. Grazie a Gianni Dragoni, a chi scrive al 349-238-6666. Confermo, Finmeccanica, secondo me, resta uno dei più bei gruppi italiani per le società che ha e per quanto sono forti nei loro singoli settori di riferimento. Altra cosa è se, diciamo, la gestione precedente ha sopravvalutato alcune partecipazioni che oggi sono state riviste in maniera brusca, drammatica quasi, e il titolo ha perso appunto il 20% in borsa. Adesso però l'aggiornamento Monti verso il Colle, potremmo dirlo in maniera un po' così oreografica, prego. So che sono il colle che va verso il monte, ma qui è Monti che va verso il colle. Emma Marcegaglia, dopo l'incontro con il presidente del consiglio designato. Molto bene, diciamo. Il professor Monti ha sottolineato l'importanza del ruolo delle parti sociali, della coesione sociale, ha detto che vuole velocemente creare il governo, vuole far uscire il paese dall'emergenza, vuole ragionare molto e concentrare molto l'attenzione sulla crescita. Vuole anche ragionare su come sarà l'Italia da qui al 2020 e 2030, vuole far ritornare l'Italia importante in Europa, quindi tutti i temi che noi condividiamo. Noi gli abbiamo riproposto il nostro documento dei 5 punti delle riforme per noi importanti, il manifesto, il progetto per le imprese. Abbiamo detto che siamo, come dire, noi supportiamo fortemente, tutti l'hanno detto, non solo noi, supportiamo fortemente il governo Monti, che è l'ultima chance per un paese che deve velocemente ritrovare credibilità. Abbiamo detto che intendiamo collaborare fortemente, che ognuno di noi in questa fase è disponibile, come dire, a prendersi responsabilità, a rinunciare anche, come dire, a tutelare l'interesse specifico per il bene e l'interesse generale. E quindi, insomma, mi è sembrato un colloquio molto, molto costruttivo, molto utile. Ovviamente in questa fase non è entrato nel dettaglio delle riforme che intende fare. Così appunto la Presidente degli Industriali dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio incaricato Mario Monti. Lina Palmerini, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera. Continuiamo con questa cronaca. Allora, domani potrebbe salire, gli ultimi aggiornamenti, dicevi tu, salire Mario Monti al Colle con la lista. Non questa sera, ma forse c'è una conferenza stampa alle 19.30 o 45? Sì, in realtà è appunto una conclusione a cui siamo arrivati un po' noi, perché la conferenza stampa di Mario Monti sarà alle 8:15 a Palazzo Giustiniani, quindi abbastanza serata inoltrata, quindi nessuno immagina che poi possa salire al Colle, anche perché la giornata si è un po' complicata ulteriormente sulla questione di cui parlavamo ieri, cioè l'ingresso o no dei politici nella squadra di governo. In particolare oggi la trattativa è stata molto serrata sul nome di Gianni Letta e anche sul nome di Giuliano Amato. C'è un veto del PD all'ingresso di Gianni Letta perché è troppo in segno di continuità con il governo Berlusconi. Si sta però ancora trattando su questo punto, è terminato da poco un vertice tra lo stesso Gianni Letta, Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini, si sta provando a convincere il PD su un nome alternativo a quello di Gianni Letta, se non proprio lui, un altro, e quindi continua un po' questo impasse. Il fatto che Monti possa salire al Colle domani lascia pensare che appunto la trattativa possa continuare fino a domani mattina. Lina, bravissima, sintetica, siamo in chiusura di programma, quindi ti farei un monumento perché mi hai detto tutto e ho ancora un minuto. Nel frattempo, mentre continuano, come tu raccontavi molto bene, i veti incrociati tra PD e PDL, lo spread... Prima o poi ripartirò e salirò, salirò, salirò, salirò, fra le rose di questo giardino. Lo spread va a 530 punti, abbiamo spiegato fin dall'inizio del programma, un'ora e mezza fa, cosa è successo anche alla Francia, al Portogallo e al Belgio, ma ripeto, avere la febbre a 43 non basta dire che il tuo compagno di banco ce l'ha a 38. BTP a 10 anni al 7,07% di interesse, magari giochiamoceli all'8, non lo so, questi numeri, visto che ci ascoltano anche molti ascoltatori. Lina Palmerini, noi ci risentiamo domani nella speranza che tu ci possa raccontare la lista dei ministri definitiva e nella speranza di poter raccontare uno spread più basso. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata comunque a tutti voi in ascolto. Domani Focus torna dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.